Letture di Radio 24. In questi giorni, nel nostro paese, più volte sono riaffiorati i ricordi delle scene politiche che furono. Gian Antonio Stella del Corriere della Sera individua un parallelismo importante tra le cautele vaticane nel censurare Berlusconi per timore di spaccare il mondo cattolico e la tolleranza che la stessa Chiesa ebbe nei confronti del Duce durante il ventennio. Tra i cattolici sofferenti e gli anticlericali impenitenti riaffiorano in questi giorni, davanti alle cautele vaticane nel censurare il Cavaliere e i suoi festini nel timore di spaccare il mondo cattolico, alcuni ricordi comuni. Non è la prima volta nella storia italiana che la Chiesa è chiamata a scegliere. 90 anni fa, fra i cattolici antifascisti di Don Luigi Sturzo, scaricati il 19 ottobre 1922, 9 giorni prima della marcia su Roma, dalla Segreteria di Stato con una circolare ai vescovi, dove si invitavano i preti a non schierarsi, scelse i fascisti di Mussolini, nonostante prima avesse firmato violenti articoli anticlericali con lo pseudonimo di Vero Eretico, rivolto dal popolo d'Italia, il fermo invito a Sua Santità di sloggiare da Roma e sfidato Dio pubblicamente. Gli do 5 minuti di tempo per fulminare questo suo nemico che vi parla. Ateo, ma utile, politique politicienne. Baron Beyen, allora ambasciatore del Belgio presso la Santa Sede, racconta in 4-1 a Rome un colloquio con il segretario di Stato. Mi parlò con la sua abituale franchezza. Mussolini, mi informò Sua Eminenza, ci ha fatto sapere che è un buon cattolico e che la Santa Sede non ha niente da temere da lui. Tanto per cominciare, ha preteso la presenza di tutti i suoi colleghi e quella del re stesso alla messa del Milite Ignoto, celebrata il 4 novembre in Santa Maria degli Angeli. Davanti al monumento di Vittorio Emanuele, dove sono i resti del Milite Ignoto, ha ordinato di inginocchiarsi in preghiera per 1 minuto, che deve essere sembrato piuttosto lungo a parecchi liberi pensatori suoi collaboratori, ma tutti han piegato le ginocchia. Diamogli un credito di qualche mese, prima di giudicare il colpo di Stato rivoluzionario che ha eseguito magistralmente. Il cardinale ha continuato anche in seguito a parlarmi del Duce nel medesimo tono favorevole. La sollecitudine con cui il dittatore acconsentì a rimettere il crocefisso nelle scuole e a ristabilire per tutti gli studenti l'osservanza delle festività di San Pietro, San Giuseppe e dell'Immacolata Concezione, resa obbligatoria a Roma per i cattolici, piacque in Vaticano. Si raccontava che Mussolini era apparso stupito quando gli avevano detto che c'erano delle feste mobili. Pensava che tutte le feste cattoliche si celebrassero la domenica. Ha molto da imparare in fatto di religione, diceva il cardinale, benché si proclami buon cattolico. La sua è un'educazione da perfezionare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo E la Chiesa scelse il Duce di Gian Antonio Stella, pubblicato sull'inserto del Corriere della Sera 7 del 3 febbraio. Letture di Radio 24. Una dittatura al potere da 23 anni, messa in ginocchio da un clic sulla tastiera di un computer. La rivolta in Tunisia, definita la rivoluzione dei gelsomini, si è riversata prepotentemente nelle strade, ma un ruolo di primo piano lo ha avuto la rete, sia nella diffusione di ideali, sia nell'organizzazione delle manifestazioni. Grazie Facebook. Scritte come questa se ne trovano a decine sui muri della città. Non è uno scherzo. I social network come Facebook e Twitter hanno infatti contribuito in maniera determinante a diffondere il verbo della rivolta tunisina. Oggi nel paese la gente può parlare e dopo decenni di silenzio finalmente può sfogarsi. Tutti parlano di tutto, nei caffè, in comizi improvvisati per strada, sui giornali che adesso raccontano fatti e non solo veline governative. In questa rivolta, che è stata definita rivoluzione dei gelsomini, un ruolo importante è stato giocato da internet. Ahmad ha 28 anni. Come lui, tanti ragazzi hanno condotto per anni una battaglia solitaria sui social network per combattere il regime. In rete si fa chiamare Sofiane Belaï. Sono venuti a prenderlo alle 6 del mattino e di lui non ho saputo più nulla per 3 giorni, dice la moglie Aika, 25 anni. Sono andata a cercarlo al Ministero dell'Interno e nessuno sapeva niente. Ho visto un uomo in una stanza senza le scarpe, bendato e con le mani legate, buttato per terra. Ero disperata. Ci aveva provato il Ministero dell'Interno con l'operazione Ammar a bloccare e censurare i gruppi e i social network su internet, già pesantemente censurato e controllato. Sono stato arrestato perché c'erano 2 reti, una controllata dalla polizia e l'altra che utilizzavamo noi. A un certo punto la rete pulita è stata bloccata. Mi hanno così individuato e arrestato. Mi hanno chiesto di tutti i miei contatti, chi erano i miei amici, e mi hanno chiesto l'identità di chiunque. Volevano sapere tutto di tutti, ma questo filone di domande si è presto esaurito perché la gente con cui chattavo era anonima quanto me. La stessa sorte è toccata anche a un altro blogger, Slim Amamu, appena trentenne, arrestato nei giorni della rivolta. Adesso è sottosegretario al Ministero per la Gioventù e lo Sport nel nuovo governo di transizione di Mohamed Ghannouchi. È un fatto singolare e probabilmente unico al mondo. Sotto Ben Ali la censura colpiva tutti, anche internet. Le associazioni politiche e gli attivisti dei diritti umani non potevano utilizzare internet. Posso testimoniarlo personalmente in quanto questa estate non sono state in grado di ricevere la posta dalla mia organizzazione. La sorveglianza e il controllo delle email in Tunisia erano al di fuori di qualsiasi legge, racconta la presidente della Federazione Internazionale per i Diritti dell'Uomo, la tunisina Souhair Belassem. È stato grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, come Twitter e Facebook, che siamo riusciti a far crescere la rivolta, perché vedendo le scene di scontri in rete, la gente era portata ad emularli. Allo stesso modo, il tam-tam su internet ci ha permesso di evitare posti di blocco, di organizzare più efficacemente i percorsi dei cortei e di portare la rivolta nei luoghi simbolo del potere. Oggi dobbiamo imparare nuovamente a fare politica perché non sappiamo neanche cosa vuol dire, però sappiamo che qualcosa è cambiato. Possiamo dire di no, se qualcosa non ci piace. Chi l'avrebbe mai detto che una dittatura al potere da 23 anni potesse essere messa in ginocchio da un click sulla tastiera di un computer? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Così chattando abbiamo guidato la rivolta, a firma di Cristiano Tinazzi, pubblicato dal Messaggero di venerdì 4 febbraio. Isabella Bossi Federigotti sul Corriere della Sera si interroga e ci interroga sullo spreco dei cibi che quotidianamente si verifica nelle nostre case. La lotta allo spreco è oggi più che mai importante e indispensabile, ma è una cultura che prima di tutto deve partire da noi. Anche Cibi Freschi distribuirà d'ora in poi il banco alimentare. E mentre si legge la notizia, vengono in mente, per esempio, le tonnellate di arance, di limoni e di mandarini che finiscono schiacciati sotto i cingoli dei trattori perché la sovrapproduzione abbassa troppo i prezzi. Oppure le ciliegie, le olive, le prugne lasciate marcire sugli alberi perché raccoglierle costa troppo rispetto a quel che se ne ricaverebbe con la vendita. Oppure quel che succede nel backstage dei supermercati, dove ogni giorno si buttano tonnellate di prodotti ancora buoni, ma indegni di restare sui banchi perché troppo vicini alla data di scadenza. Per non parlare delle panetterie, dove filoni, ciabatte, michette e rosette di ieri vanno spesso e volentieri ad alimentare la filiera del cibo per animali. E per fortuna che non sappiamo bene cosa succede con i vassoietti di cibo lasciato intatto sugli aerei, con gli avanzi degli innumerevoli banchetti ufficiali, con l'invenduto di pasticcerie, latterie, salumerie. Invece sappiamo bene quel che succede nelle case, anche le nostre, dove, sia pure in proporzioni minori, familiari, ogni giorno finiscono nella pattumiera avanzi che avrebbero potuto non esserci. Pane e pasta, frutta e verdura soprattutto, dicono gli esperti, in un anno quantità abnormi per ogni casa. Perché si è comprato troppo? Perché si è cucinato troppo? Perché si è persa l'antica scienza paziente di riutilizzare gli avanzi, sulla quale, tra l'altro, si fonda gran parte della nostra migliore cucina regionale? E invece ancora non si è acquistata, non in Italia almeno, la scienza nuova in nome della quale in altri paesi europei, quelli più avanzati peraltro, i fornai mettono in vendita il pane e i dolci del giorno prima a metà prezzo. E altrettanto succede nei supermercati con il latte, lo yogurt, i salumi, la carne, la frutta e la verdura, cibi freschi insomma, che stanno per avviarsi alla scadenza. Da noi no. Perché, come si sa, in fatto di cibo siamo più difficili e delicati di altri? O perché è immodificabile la nostra profonda natura di cicale? Eppure, nei tempi di crisi, converrebbe rivalutare alla grande le formiche. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Alimentari, la lotta allo spreco, una cultura che deve partire da noi, a firma di Isabella Bossi Fedrigotti, pubblicato dal Corriere della Sera di venerdì 4 febbraio.